Milano, 24 maggio 1972, in via Valcava, davanti alla Crusè. Via Valcava 6, davanti alla Crusè. E qui che cosa si fa alla Crusè? Che cosa fanno? Temporizzatori, ovvero timer per lavatrici, sì. Lavastoviglie. Qui per esempio, quanti operai ci sono dentro? Ma prima di incominciare la lotta fra Milano e Baranzate, ce n'erano 350, adesso ce ne saranno 300 in totale. Perché c'è una sede qui e una sede a Baranzate. Sì, c'è una sede a Baranzate, sì. E la lotta come è cominciata? Prima di parlare di questa lotta bisogna fare riferimento alla lotta dell'anno scorso. Ecco, giusto. Che abbiamo portato una lotta di avanti di 3 mesi quasi, per il Cottimo, l'eliminazione del Cottimo, le qualifiche, il consiglio di fabbrica e altre e varie cose, insomma, di minore importanza. Vabbè, dopo quasi 3 mesi di lotta, l'anno scorso abbiamo raggiunto una vittoria quasi completa. Ma la cosa più importante dell'anno scorso è stata l'organizzazione all'interno della fabbrica, l'unità che si è creata all'interno della fabbrica fra le operaie che hanno capito certi problemi. Infatti ogni tentativo del padrone di far passare una certa linea, non so, di aumentare i ritmi, o anche altre provocazioni, non so, ad esempio il cartellino che invece di stare nella cartelliera dopo le 8:15 veniva portato in direzione, veniva respinto in massa dagli operai. Cioè tutte queste cose non sono andate a genio al padrone, evidentemente, che infatti si è impegnato per cercare lo stabilimento a Zingonia. La mattina appena alzata, bella ciao, la mattina appena alzata. A Zingonia mi tocca andare, con la nebbia e il brutto tempo. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e con la nebbia e il brutto tempo. A me tocca anche viaggiare, e a Zingonia noi troveremo. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e a Zingonia noi troveremo. Nuovi riti di lavoro, il capo in piedi col suo bastone. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, il capo in piedi col suo bastone. E noi curve a lavorare, compagne mie, ma che tormento. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, compagne mie, ma che tormento. Ma che vita ci tocca far, il salvagente, lui è avanzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, il salvagente, lui è avanzato. E noi la barca per affondare, il mio papà, che mi vuol bene. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, il mio papà, che mi vuol bene. A Zingonia mi vuol mandare, e senza mezzi per arrivare. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e senza mezzi per arrivare a Zingonia lavora. Si è cominciato con l'assemblea di fabbrica e insomma tutti erano d'accordo. Ma prima che queste assemblee venissero ultimate, la direzione, questo di venerdì lo fece, chiamò il consiglio di fabbrica urgentemente e gli disse: beh, vi devo informare che la fabbrica a partire dal 4 aprile 1972 sempre si trasferisce a Zingonia. Vabbè, è stato un colpo così. Comunque era di venerdì, quindi c'era sabato e la domenica che placcava le acque. Intanto cominciavano ad arrivare le lettere dove appunto diceva i motivi che l'avevano spinto a trasferirsi, che peraltro vabbè, adesso sono saltati fuori che sono dei motivi abbastanza banali. L'unica cosa che lui ha intenzione di fare è smantellare il personale e fare come cavolo piace a lui. Parla della letterina. È arrivata la letterina con la dolce sorpresina che a Zingonia ci vuol mandare. Da via Valcava non ci spostiamo e qui restiamo a lavorare. Da via Valcava con la dolce sorpresina che a Zingonia ci vuol mandar, ci vuol mandar, ci vuol mandar. Per molti anni lui ci ha sfruttato, con l'espansione ci vuol sganciar. Per molti anni lui ci ha sfruttato, con l'espansione ci vuol sganciar. È arrivata la letterina con la dolce sorpresina che a Zingonia ci vuol mandar, ci vuol mandar, ci vuol mandar. E di là lì ce ne freghiamo, e noi la lotta la continuiamo. E di là lì ce ne freghiamo, e noi la lotta la continuiamo. Deriva, è arrivata la letterina con la dolce sorpresina che a Zingonia ci vuol mandar, ci vuol mandar, ci vuol mandar. Le trattative ora noi vogliamo e qui restiamo a lavorare. Le trattative ora noi vogliamo e qui restiamo a lavorare. Vabbè, il gruppo per impiegati aveva riunito quel venerdì. Si era riunito e anche allargato con altri operai per vedere, vabbè, a questo punto che obiettivi portare avanti. Si è discusso il venerdì, la domenica, il sabato, si erano preparati un sacco di volantini per la zona. L'unica cosa che ci sembrava opportuno portare avanti era tempo di lavoro come tempo di trasporto, che peraltro è un obiettivo avanzato, però a questo punto non c'era altro da fare. Vabbè, il lunedì si fa l'assemblea in fabbrica, il gruppo per impiegati non aveva ancora portato avanti l'obiettivo tempo di trasporto, tempo di lavoro, ma è emerso dall'assemblea. Cioè gli operai dicevano, va bene, portiamo avanti, non so, noi chiediamo che il tempo di trasporto ci venga considerato come tempo di lavoro. E si è subito attuata la forma di lotta, picchettaggio delle merci e delle catene. Cioè, sciopero del rendimento e 2 ore di sciopero al giorno, articolato per ogni reparto. Lo sblocco delle merci avveniva di notte, la prima volta c'erano circa 200 poliziotti, fra polizia e carabinieri, schierati in via Valcava, da una parte e dall'altra. Cioè i due imbocchi. Esatto. Sì. Poi 2 cordoni di polizia, questa è la prima volta. Davanti venivano presi tutti i nomi dei compagni che facevano il picchetto, e poi lasciati indietro. Venivano caricati i camion e vabbè, poi scortati, vabbè, andavano via. La prima volta, il primo sblocco, la polizia non si è limitata a fare questo, ma un momento, non si sa bene se sia la polizia o il padrone, non è stato chiarito. Ad ogni modo c'era la polizia davanti che ha chiuso gli occhi. Erano state bruciate una tenda, spaccata un'altra. Qui avevate già le tende. Esatto. Più o meno il primo sblocco in che data? È stato di giovedì della seconda settimana. Sblocco. Ha bruciato tende, sacchi a pelo, manifesti. Voi le tende le avevate già messe da quando? Le ho messe il secondo giorno. Il primo giorno mi ha fatto il picchetto fuori senza le tende, sì. Ecco, e hanno bruciato le tende, i manifesti. Sacchi a pelo, manifesti, tutto ciò che avevamo fuori. Ha spaccato un'altra tenda. Le bandiere. Sì. Bandiere e altre cose. È arrivata la polizia con i mitre manganelle, chissà quando la finirà, la finirà, la finirà. E aspettato che venga notte per portar via la produzione. E aspettato che venga notte per portar via la produzione. È arrivata la polizia con i mitre e manganelle, chissà quando la finirà, la finirà, la finirà. Noi debruciamo le nostre tende, ha chiuso gli occhi per non vedere. Mentre bruciava le nostre tende, ha chiuso gli occhi per non vedere. È arrivata la polizia con i mitre e manganelle, chissà quando la finirà, la finirà, la finirà. E della pula ce Il secondo sblocco è venuto il 12 marzo, questo me lo ricordo bene. Viene ulteriormente abbassata la produzione, che viene portata dalla base a sotto la base, cioè se ne facevano 100 50 timer all'ora. Invece di cioè a tempo normale se ne fanno 1750, 1800 al giorno, a tempo normale, quindi 50 timer al giorno, allora erano abbastanza pochi. Quando è stato che al secondo sblocco, che noi abbiamo diminuito la produzione, abbiamo deciso di fare i 100 pezzi, no? Dopo il terzo sblocco. Il secondo sblocco. E a questo punto il padrone ha mandato le citazioni agli operai, cioè ha denunciato per scarso rendimento. A questo punto la direzione ce la fa pagare citandoci in tribunale. Ah, citazione tribunale. Sì, ha citato 65 persone. Con quale motivazione? Con quale motivazione? Che noi facevamo tutto tranne che lavorare. Senza capire che quella lì era una nostra forma di lotta scelta da tutti gli operai, che saremmo stati un 300, invece lui ne ha citato solamente 65. È arrivata la citazione per la scarsa produzione. Tutto quello che comporta ci fa proprio divertire, ma se questa è una sua mossa per noi fare intimidire, rispondiamo alla direzione che fa proprio divertire, dimostriamo alla direzione che è la loro citazione, noi tutti ce ne freghiamo. E la lotta la continuiamo per raggiungere la vittoria, tutti uniti noi saremo, a Zingogna non ci andiamo e via Valcava noi restiamo, carabinieri e polizia, voi difendete la borghesia, ma gli operai si uniranno e il pugliolo vi metteranno, noi sappiamo che sarà dura, ma di nessuno avremo paura, rivoluzione noi faremo e al socialismo arriveremo. Io ho tutti i grandioni rotti, ho vergogna. Ma siccome l'anno scorso sono quadri, ho solo questo grembiule. L'anno scorso ci hanno promesso che ci avrebbero pensato nei primi mesi estivi. Hai deciso di tirare giù la fabbrica pallonante. Si è seduta, quando hai rischiato di tirare il pallonino al vento, anche se si rompe, la paghiamo noi? Se la rete viene valore 12 pesci. 12, ma... ma cos'erano? Tutti dietro la porta, non dietro le scrivanie? Hai visto? Tutti uno dietro l'altro. E li avevano paura. Per forza, li manda lui, appena sentito Marisa, urlare. Che stai facendo? Hanno sentito urlare, anche... E poi la 500 quel cretino a scuola. Per quello che... Lui ha chiamato con la 500. Ha chiamato. Cosa ha chiamato? E ha suonato perché dovevano uscire. Ma fa un culo nel tuo pallone, porca miseria! Guarda, se non viene un colpo al cuore. Capito? Mi metto un filo. Vuoi smettere adesso? Ne ho le altre, sai? Cos'è? Devo far posta. Ma non tirare giù le bottiglie però, I sassi! Comunque ci va su presa qui, se ne frega tutti fra poco, lo dico. I sassi? Adesso fatemi aprire! Troia! Chi ho? Pilla! Ma si può? Marisa, ma si può? Lui porta tira giù la bottiglia? Prendete la bottiglia e fatele. Guarda che lì ne ha preparato un'altra, Ha tirato una bottiglia. Alla Elisa. A lei. Non toccala, che è un. Lascia stare. Lasciala stare, guarda che lì ce n'è un'altra, Lì ce n'è messo un'altra. Si ubriaca. Adesso che ce n'è un'altra, detto. Guarda che. Ha preparato un'altra sulla finestra. Si ubriaca e dopo tirano le bottiglie. Teniamo la discorta, non ripeterla. Lo puoi denunciare perché ti ha chiamato a Troia. Ha tirato una bottiglia. Lì dietro, lì dietro. A Ma la Franca l'ha chiamata Troia. Io ci ho detto, vabbè, a lei è andato il pallone sul vetro, ma lui non è mica obbligato a tirarci le bottiglie, eh? E lei Troia. E lui mi ha detto, tu stai zitta che fai fatica a dimagrire, Troia. Non si può. Guarda che ha messo la bottiglia lì, è un'altra bottiglia. Le cose dove vanno? Anche la mia. Quanti giorni sono che siete in ballo? Tre mesi e mezzo. Oggi è 24, tre mesi e mezzo oggi. Tre mesi e 10 giorni preciso. Volevo aggiungere. Io vado a timbrare. La solidarietà dimostrataci dai compagni dei CUB e dei consigli di fabbrica delle altre fabbriche. Dei consigli di fabbrica delle altre fabbriche. Vabbè, insomma. Che non si è limitata solamente al picchetto notturno, al sostegno del picchetto. Ma si sono recati qua molte volte di giorno, hanno portato volantini di solidarietà, tazze Bau, hanno pubblicizzato la nostra lotta all'interno delle loro fabbriche. Inoltre continuano ad arrivare adesso sottoscrizioni di soldi. Fare una manifestazione dopo tre mesi e mezzo con sciopero della zona Sempione verrà fatta domani mattina. Alle 9. Alle 9. Proprio in piazza San Pietro. In piazza Firenze. Piazza Firenze.